Vai. Oh, andiamo in onda, Fioia. Radio Wombat. E siamo qui con una nuova puntata delle nostre dirette speciali da Frittole, la radio ai tempi del Colera. Radio ai tempi del mattone. E su venerdì scorso siete state intrattenute da una radio leggerezza. Non è così. Quest'oggi. Perché quest'oggi torniamo ai vecchi fasti di Radio Mattone. Sì, avrete riconosciuto le musiche allegre, le nostre voci festose che caratterizzano le discussioni di Radio Mattone. E per iniziare un augurio di buon primo maggio a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici. Assolutamente sì, proprio è la giornata giusta per affrontare questo tema. Non ne parla nessuno oggi. A parte gli scherzi, se siete connessi è perché siete andati su wombat.noblogs.org ed è lì che trovate tutto il resto. E se ci volete scrivere, fatevi avanti, vi esigiamo i vostri contributi più che mai, canzoni, richieste, insulti. Potete scriverci a gattini, no, sto sbagliando, frittole@gattini.ninja. E poi sempre sul Noblox di Wombat trovate il link al pad, al fantastico pad, per scriverci in diretta. E se non avete voglia di ascoltare Radio Wombat, andate su Radio Spore, che tanto stanno facendo un bel po' di roba anche loro, e tra poco li sentiremo. Eh sì, perché è un collegamento in diretta appunto con i nostri amici, colleghi bolognesi di Radio Spore, è solo uno dei contenuti di questa puntata, che sarà ovviamente dedicata alla ricorrenza sia del 1° maggio, ma anche un po' di riflessioni che da questo che traggono appunto spunto e partenza dal lavoro, da una festa del lavoro che è anche, perché no, un momento di rivolta contro il lavoro. E per cui avremo contributi di Marina, faremo una panoramica storica su quelle che sono state le origini del 1° maggio, come festa del lavoro. E appunto qui in studio con Rosa e Stamp. Sì, andrei subito ad introdurre i nostri ospiti, ospitesse specialissime, specialissime. Finalmente ci degnano della loro presenza bisettimanale. E poi attendiamo anche Diesis e Albus per darci un po' di musica dal vivo, perché ci stiamo stancati della musica elettronica. Di questi freddi computer. Un appuntamento fisso delle nostre dirette speciali che speriamo potete apprezzare bene anche questa volta. Prego, prego, presentiamo i nostri ospiti, cingetevi ai microfoni. Non so se t'hanno sentito. Il microfono è acceso. Sì. Buonasera, sono Stamp. Ciao Stampi. Buonasera a tutte e tutti, Rosa. Che gioia, che bello. E siamo qua a guardarci negli occhi. We'll be right back. E allora andiamo a incominciare con i contributi di questa puntata, come dicevamo, che sarà dedicata appunto alla ricorrenza del primo maggio. E la prima delle riflessioni che vorremmo proporre, appunto, prende spunto da molto indietro, nel passato. Per cui non tanto a quali sono appunto gli avvenimenti storici che hanno portato il movimento dei lavoratori a impossessarsi, a indire, a rivendicare questa giornata, ma più in generale a quella che è la nozione del lavoro, quella che è il come siamo arrivati ad avere una società di salariati, e per cui quali sono state appunto le basi materiali che hanno portato allo stato attuale, e poi hanno reso necessarie tutte le lotte contro una miseria dell'esistente che tutti conosciamo e che appunto puntano, come appunto la festa del primo maggio, a metterla in discussione, a cambiarla, appunto farla diventare una liberazione. Quando vuoi, Beppi? Sì, quindi adesso andiamo a ascoltarci un breve estratto introduttivo e poi via con la parola Marina. Io non so come chiamarvi, signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so. Ma piatta, vieni qua, vieni a parlare al microfono. Chiama il microfono. Vieni qua. Parla un momento solo. Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo pro forma. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cotimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono a noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte. E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che te l'hai stesa, Sentimi bene, Massa, te che adesso parli tanto, ma dov'è che eri? Sì. Quando noi altri, coi compagni del sindacato, abbiamo fondato il sindacato qua della fabbrica, della PA, dov'è che eri, Rispondi. E dov'è che ero? Dov'è che ero? Facevo il cottimista. Seguivo la politica dei sindacati. Lavoravo per la produttività, incrementavo. È giusto! E adesso cosa sono diventato? Guarda, sono diventato una bestia, guarda, sono diventato. Beh, sei una bestia, mica noi altri. Lo studente, lì fuori, dice, aspetta, concetto, dice, ecco, che noi siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, io sono un bulone. Io sono una vite, io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa, e lei la pompa è rotta, no, più. E non c'è più verso di aggiustare la pompa adesso. Io propongo questa proposta, di lasciare subito il lavoro di... Chi non lascia il lavoro subito adesso è un crumino, è un faccia di merda. Una condizione necessaria allo sviluppo del capitalismo è stato il processo che Foucault ha definito il disciplinamento del corpo. È verso la metà del XVI secolo che vediamo emergere in ogni articolazione della vita sociale una nuova concezione della persona, come parte di quel vasto processo di riforma sociale in cui la nascente borghesia tentava di plasmare le classi subordinate secondo i bisogni dell'economia capitalista in via di sviluppo. L'espropriazione dei contadini dalle terre comuni, infatti, non è stata condizione sufficiente per costringere i nuovi proletari espropriati ad accettare il lavoro salariato. Così, il capitalismo ha cercato di spezzare le barriere poste dalla natura, allungando la giornata lavorativa oltre i limiti posti dal sorgere e dal tramontare del sole, dai cicli stagionali e anzitutto dal corpo stesso, come costituito nelle società preindustriali. È nel corso di questa vasta operazione di ingegneria sociale che comincia a delinearsi una nuova concezione del corpo e una nuova politica nei suoi confronti. Se da una parte il corpo è combattuto come la fonte di tutti i mali, dall'altra è osservato e analizzato con passione. Perché, dunque, questa centralità del corpo nella politica di Stato e nel discorso intellettuale? Perché, se da un lato il corpo si presenta come una bestia inerte agli stimoli del dovere, dall'altra è anche visto dalla nascente classe borghese come l'involucro, il contenitore della forza lavoro, il maggior mezzo di produzione, la prima macchina di produzione. È il lavoro, non la terra o qualsiasi altra risorsa naturale, a costituire la fonte primaria dell'accumulazione. Sono gli esseri umani la principale risorsa produttiva. Non per niente, è proprio durante il XVII secolo che nasce e si sviluppa l'anatomia come disciplina scientifica, sviluppando una nuova curiosità nei confronti del corpo, che ora, nelle parole di un medico dell'epoca, può essere aperto. Così, il corpo emerge come protagonista della scena medica e filosofica, come corpo disincantato, dissacrato, che solo in linea di principio può essere concepito come la sede dell'anima, ma che in effetti è trattato come una realtà separata. Sotto lo sguardo degli anatomisti, il corpo è una fabbrica, e nella visione della filosofia meccanica si percepisce un nuovo spirito borghese che calcola, classifica, distingue e degrada il corpo solo per razionalizzarne le facoltà, mirando a intensificarne l'assoggettamento e a massimalizzarne l'utilità sociale. Porre il corpo come materia bruta, priva di quelle virtù occulte che gli attribuivano sia la magia naturale che le credenze popolari dell'epoca, significa decretare la possibilità di subordinarlo a un processo lavorativo sempre più affidato a comportamenti uniformi e prevedibili. Proprio come la natura, ridotta a una grande macchina, poteva essere conquistata e, nelle parole di Bacone, penetrata in tutti i suoi segreti. Anche il corpo, privato di tutte le sue forze occulte, poteva essere catturato in un sistema di dominazione, dove i suoi comportamenti sarebbero stati calcolati, organizzati, pensati tecnicamente e investiti di rapporti di potere. La macchina stava diventando il modello del comportamento sociale. Mm-hmm. marcia in postura, ma senza età matura, marcia in postura, delirio onnipotente, dominio che sovrasta, efficienza di netto, burocratica casta, potenza del pesante, preme, compatta, schiaccia. Sono tecnologico, bolscevico, Da una parte, abbiamo una concezione del corpo che lo vede dotato di poteri anche dopo la morte, per cui non ispira quel ribrezzo che ispirerà poi il cadavere. Ne è trattato come una cosa putrida e irrimediabilmente aliena. Dall'altra, una concezione che lo vede già morto anche quando è ancora vivo, in quanto lo pone come un congegno meccanico da smontare proprio come qualsiasi altra macchina. Ciò che fu distrutto fu il concetto del corpo che aveva caratterizzato il mondo medievale. Il corpo macchina, infatti, non poteva diventare il modello del comportamento sociale senza che venissero distrutte una vasta gamma di credenze, pratiche e soggetti sociali precapitalistici. È in questo concetto che va letto l'attacco mosso contro la stregoneria e, in generale, la concezione magica del mondo, che non ammetteva separazione tra materia e spirito, e considerava il cosmo come un organismo vivente, fatto di segni e simboli, nascosti in ogni pianta, erba, corpo, perfino nelle malattie e nella morte. Segni che testimoniavano invisibili affinità che dovevano essere decifrate. La concezione magica del mondo aveva inoltre come fondamento una concezione qualitativa del tempo e dello spazio, che mal si conciliava con la nuova disciplina del lavoro salariato. Come potevano i nuovi imprenditori far lavorare regolarmente un proletariato convinto che esistono giorni fausti e infausti, giorni in cui lavorare o sposarsi, o giorni in cui ogni attività va accuratamente evitata? Altrettanto incompatibile con la visione del corpo che attribuiva agli individui poteri magici. Lo sguardo magnetico, la capacità di rendersi invisibili, di uscire dal proprio corpo o di piegare la volontà altrui con l'incantesimo. Agli occhi della nuova classe capitalista, questa visione anarchica e molecolare della diffusione del potere suonava come un anatema. Aspirando al controllo sulla natura, l'organizzazione capitalista del lavoro doveva eliminare la possibilità di stabilire un rapporto privilegiato con gli elementi naturali, come anche la credenza che esistessero poteri fruibili solo da alcuni individui, e dunque non generalizzabili e non sfruttabili. Il mondo doveva essere disincantato per poter essere dominato. Sradicare tutte queste pratiche e credenze era imprescindibile per imporre una disciplina del lavoro capitalista, perché la magia si presentava come una forma illecita di potere e uno strumento per ottenere ciò che si voleva senza lavorare. Era cioè un rifiuto del lavoro in atto. Significativo il fatto che il patto tra il diavolo e le streghe venisse chiamato congiurazio, come i patti che si stringevano tra gli schiavi e i lavoratori in lotta. La magia uccide l'industria, affermava Bacone. Eccolo maggio, pian pian piano piano, con l'acqua in grembie e le mezzine in mano. Ebbene venga maggio, e maggio l'è venuto. Eccolo maggio, fa fiori l'ortica, se c'è bambini in casa che Dio li benedica. Ebbene venga maggio, e maggio l'è venuto. Eccolo maggio, fa fiori le zucche, date marito alle belle, datelo anche alle brutte. Ebbene venga maggio, e maggio l'è venuto. Eccolo maggio, fa fiori le pere, a voi capoccia mi si chiede da bere, e piano piano mi voglio avvicinare, quei giovin belli li voglio salutare, e piano magia. Siete più belli che nella festa sia. Fiore di maggio, gli è fiorito rosi. Un guanno dami, un altro sposi. Fiore di maggio, gli è fiori lontani. E prego il Dio vi tenga tutti sani. E bene venga, maggio e maggio l'è venuto. Trattare il proprio corpo, le sue capacità e i suoi cedimenti, gli stati di salute e malattia, come realtà esterne da valutare, sviluppare e tenere a bada per ottenere i risultati voluti, diventerà una caratteristica tipica dell'individuo plasmato secondo i dettami della disciplina del lavoro capitalista. Non è un caso, infatti, se accanto alla strega cattiva, che malediva, azzoppava le bestie, rovinava i raccolti e faceva morire i bambini dei padroni, fu perseguitata, spesso ancor più severamente, la strega buona, che esercitava la magia come mestiere di levatrice, medica, chiaroveggente e fattucchiera. Dopo il Concilio di Trento, che va dal 1545 al 1563, la Controriforma prese posizione contro i guaritori e le guaritrici popolari, temendo il loro potere e il loro radicamento nelle comunità. Con la persecuzione della medicina popolare, le donne e le comunità furono espropriate da un patrimonio di saperi empirici su erbe e rimedi curativi che avevano accumulato e trasmesso di generazione in generazione. Non è un caso se molte delle donne accusate e poi processate per stregoneria erano vecchie e povere. Le anziane, infatti, erano quelle più propense all'interno della comunità in via di distruzione a opporre resistenza a questo processo e al diffondersi dei rapporti capitalistici. Inoltre incarnavano il sapere e la memoria delle comunità, la cui perdita ha aperto la strada a una nuova forma di recinzione. Nasce qui la medicina professionale, che ha eretto davanti alle classi inferiori un muro inoppugnabile di sapere scientifico. Inoltre, la magia minava il principio della responsabilità individuale, collocando le linee determinanti della condotta sociale nel regno delle stelle, al di là del suo controllo. Nella razionalizzazione dello spazio e del tempo, che caratterizzano la speculazione filosofica del XVI e XVII secolo, la profezia è stata sostituita con il calcolo delle probabilità, il cui vantaggio, da un punto di vista capitalista, è che il futuro si può anticipare solo nella misura in cui si assumeva la regolarità e immutabilità del sistema, presupponendo che il futuro sarà uguale al passato e che nessuna rivoluzione interverrà a sconvolgere le coordinate della decisione individuale. Lo sviluppo della statistica e della demografia compiono sul corpo sociale la stessa operazione che l'anatomia e la medicina compiono su quello individuale. Permettono il dissezionamento della popolazione, di cui studiano i movimenti nei loro aspetti più massificati e regolari. Lo sviluppo della macchina umana è stato il più grande salto tecnologico, il più grande passo verso lo sviluppo delle forze produttive compiuto nel periodo dell'accumulazione originaria. Il corpo umano, e non la macchina a vapore e nemmeno l'orologio, è stata la prima macchina che il capitalismo ha sviluppato. La tatuata bella al lavoro non ci va. Ha messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita. A consumar le dita per gli altri non ci sta. Padrone mostra il muso, vediamo come sei. Padrone mostra il muso, che lingua parlerai. Da dove arriverai a cercar profitto? Sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai. E se lavori tu un motivo ci sarà, E se lavori duro, un motivo ci sarà. Che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro, o solo del pensiero, che senza non si può. Ti dico che non vengo a lavorare, non vengo, starò con la mia bella sul prato a far lavoro. Padrona mia è la luna e altro io non ho. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna e altro io non ho. E grazie mille Rosa, questo è il tuo intervento veramente fenomenale. Marina. Sì, davvero, finalmente una bella analisi dei corpi. Vi mancavo, dite la verità, dopo l'Haraway la settimana scorsa, questa settimana dobbiamo, bisettimana abbiamo fatto Radio Leggerezza. Comunque, due settimane fa era l'Haraway che dovevamo ringraziare, questa volta è un'altra donna che io personalmente stimo molto, Silvia Federici. La lettura era un estratto da Il Calibano e la strega, che consiglio come lettura a tutte e a tutti. Oh, bellissimo. E come, vabbè, no, mi fa molto piacere che hai trovato questo contributo. Sì, una particolarità, infatti, quello che vorremmo anche cercare di fare un po' qua a Radio Mattone è di non dare niente per scontato. Molto, molto spesso, infatti, anche anche molti aspetti della società attuale, anche dei compagni, vengono dati per scontati, ed è molto bello invece cercare di scavare un po' più a fondo, andare un po' più indietro a ricerca di non solo di paesaggi dove riconoscerci, ma anche di analisi più complesse, e per affinare le nostre armi e capire meglio anche le ragioni di tutti quanti dei fenomeni che abbiamo attorno. E la Federici, anche io mi sento di consigliarla, un'analisi femminista e sì, anche marxista, come lei è, di quella che è l'accumulazione originale del capitale, che ha portato sicuramente appunto a un mondo di lavoro salariato e di miseria conseguente. Marina, se volevi aggiungere qualcosa. Allora, come sempre, me la cavo benissimo con l'improvvisazione, come potete notare dal fatto che mi preparo sempre lunghi estratti da leggervi. Però sì, credo che studiare, capire da dove veniamo, da dove sono, dove si sono formati, da dove provengono tutti quei piccoli pezzi da cui siamo composti, sia essenziale in quanto militanti per riuscire a essere consapevoli di ciò che si fa e per decidere in che direzione andare e da cosa farci trasformare. Questo momento mi ha fatto riflettere molto appunto su quello che consideriamo la nostra salute, sui dati statistici che ci vengono propinati tutti i giorni e sull'isolamento preso come cura e su da dove vengono le malattie, e per cui mi sembrava doveroso in questo momento e oggi, proprio oggi che è la festa dei lavoratori e una festa di liberazione dal lavoro, ricordare che il processo di accumulazione originaria è andato di pari passo con l'espropriazione dei mezzi per autogestire la nostra salute e che il nostro compito è necessariamente quello di riappropriarcene. Come non essere d'accordo, sì. E ancora grazie Marina, e direi che a questo punto potremo anche passare e dare tra poco la parola allo Stampi, magari anche a Rosa, che invece ci avevano preparato un altro tipo di panoramica storica, di ricerca e di anche di attualizzazione di quello che è il nostro passato, legato proprio alla ricorrenza del primo maggio. Forse tanti ne hanno parlato, magari in questa giornata sicuramente, non saremo gli unici, ma volevamo un po' ripercorrere un excursus e leggere anche qualcosa che ci era parso molto interessante sui fatti che portarono alla proclamazione da parte del movimento dei lavoratori e della festa del primo maggio, la sua celebrazione appunto come momento sì di festa, di astensione dal lavoro, sciopero, sebbene di un giorno solo, e anche però appunto con una sua connotazione di lotta. Un'ambiguità questa di festa e lotta che è sempre stata una delle, nelle oltre centenaria storia del primo maggio, è stato uno dei suoi punti di forza più grandi. E quindi vai, Stampi, se vuoi introdurti. Allora, introduco varie cose. Intanto il fatto che il primo maggio, come veniva appena detto, ridotto a una giornata unica di festa, in alcuni casi del lavoro, in alcuni casi del non lavoro. Un abbraccio ai compagni del Forte. Sarebbe da prendere in coscienza il fatto che fosse di ben più di un giorno e di sicuro non di festa. Visto che venivano fatte delle citazioni di fonti a cui ci rifacciamo, mi piacerebbe leggere la copertina intanto del libro da cui abbiamo preso spunto per farvi le future chiacchierate, che è di Ricardo Mella, che è uno spagnolo nato nel 1861, anno che per l'Italia fu in parte infausto, e che era inizialmente un repubblicano federale, che a suo tempo erano una corrente diciamo tra le più alternative, e in copertina c'è scritto questo: primo maggio, i martiri di Chicago, verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che oggi soffocate con la morte. Caro Ricardo Mella riporta le voci dei vari impiccati di Chicago, i quali sono stati ritenuti responsabili della morte di un poliziotto durante una manifestazione. Quello che farò in questo momento sarà un excursus storico in cui cercheremo di capire assieme come siamo arrivati al primo maggio del 1887. La manifestazione in realtà per cui noi dovremmo fare festa per ben 4 giorni era stata in realtà il 4 di maggio. Come mai queste manifestazioni? Siamo situati negli Stati Uniti d'America, terra di libertà, famosa per essere terra di libertà. in cui gli operai, partendo da New York con gruppi di portuali, e vista la canzone dei lavoratori del mare iniziale della puntata era ad uopo, portuali ed edili incominciarono a protestare tra il 1803 e il 1806 per avere riduzioni dell'orario di lavoro. Vi farò un excursus di date, luoghi e gruppi di lavoratori. Abbiamo appunto New York, alle quali segue Boston, in cui i carpentieri si radunano nel 1832, non ancora per scioperare, però per reclamare all'interno delle fabbriche o comunque con i loro borghesi capi la riduzione a 10 ore di lavoro, senza avere risultati. Dalle 12 originarie? Dalle 14. 14 originarie. E sti cazzi, che erano già una conquista. Loro non ottengono risultati. Nello stesso anno però stimolano, si vede, i borghesi a cagarsi un attimo addosso nel sito di New York e Filadelfia, perché ottengono qualche riduzione. Addirittura questo procedere di reclami, che finora sono reclami, porta il presidente degli Stati Uniti nel 1840 a ridurre a 10 ore di lavoro gli impiegati pubblici nelle industrie belliche. 5 anni dopo, questo perché ovviamente erano pubblici, ecco, questa è una distinzione che andrà tenuta presente. A Pittsburgh nel 1845, qui abbiamo il primo raduno grande, abbiamo 4.000 operai che scendono in piazza con uno sciopero per 5 settimane per arrivare alla riduzione di 10 ore di lavoro. 5 settimane di mancanza di entrate per i capitalisti. Nel New England, a New York e in Pennsylvania invece nel 1845-46, quindi per 2 anni, si sviluppano una serie di scioperi in continuazione. Da questo, durante questi 2 anni, cosa abbiamo? Che al 12 ottobre del 1845 abbiamo il primo congresso operaio negli Stati Uniti, per cui si arriva a decidere all'interno del congresso riguardo alla nascita di una società segreta di protezione dei proletari americani. Questo per, si sa benissimo, terra di libertà, organizzarsi segretamente per riuscire a fare solo propaganda, niente di più. Allo stesso tempo, nella terra madre, ricordando la provenienza degli Stati Uniti di colonia, in Inghilterra abbiamo nel 1847 che venga posto al limite di 10 ore il lavoro, quindi si ottiene prima in Inghilterra, perché si vede che annusano l'aria e dicono le stesse proteste che ci sono negli Stati Uniti a noi probabilmente ci seppelliscono, quindi facciamo che preveniamo un pochino. Negli Stati Uniti festeggiano assai gli operai, in piena solidarietà con i loro compa britannici. Ben 8 anni dopo, in New Hampshire lo stesso anno arrivano a ottenere la stessa cosa. Quindi il fatto che delle proteste abbiano generato un cagarsi addosso da parte dello Stato e dei borghesi, si arrivi a riottenere per chi aveva protestato qualche vantaggio. Comunque quasi tutti gli Stati Uniti l'orario di lavoro rimaneva attorno alle 14 ore, mentre nel 53, quindi ben 8 anni dopo, si riesce ad arrivare al fatto progressivamente che le ore di lavoro non siano più di 11. Il presidente Johnson nello stesso anno mette il limite di 8 ore per gli impiegati statali. In Baltimora nel 66, e questa è una data fortemente da ricordare, il congresso operaio stabilisce per i propri appropriati un avvio dell'abbandono del sostenimento ai partiti borghesi. Questo dalla creazione al Partito Nazionale Operaio negli Stati Uniti. Ben 3 anni dopo, in Boston, si dà la creazione la Lega delle 8 ore, che è la Lega che ha un programma socialista e che, grazie alla partecipazione degli immigrati tedeschi residenti negli Stati Uniti 2 anni dopo, darà vita all'Associazione Internazionale dei Lavoratori. La AIT? IWW? È l'acronimo. International Workers of the World. Questa da genera scioperi di più di 100.000 operai negli Stati Uniti tra il 70 e il 71. 2 anni dopo si ha una paralisi del lavoro generica in seguito a una crisi. Si vede, il capitalismo replica questa modalità molte volte. Fanno la fame, molti operai fanno la fame. Il 13 gennaio del 73 avviene uno sciopero con una manifestazione molto imponente che vede una repressione da parte della polizia fortissima. Qui siamo nel 73, quindi 14 anni dopo, prima della data del primo maggio. Nei 3 anni seguenti si hanno moltissimi scioperi. Nel 77 si ha moltissimi scioperi da parte dei ferrovieri e questo sarà un punto di svolta a livello di intensità del conflitto. Si forma nell'anno 80 la Federazione dei Lavoratori degli Stati Uniti e del Canada. Nell'84 si ha una riunione a Chicago per dar vita, 2 anni dopo, a uno sciopero generale, quindi di tutte le categorie dei lavoratori, per avere le 8 ore il primo maggio del 1886. In quell'anno si hanno 200.000 operai che chiedono la riduzione e ottengono la riduzione dell'orario di lavoro più altri vantaggi. È un anno di tensioni, si sviluppano vari conflitti che vedono in febbraio alla fabbrica di McCormick il licenziamento di 2100 operai per aver rifiutato di prendere distanza dalle organizzazioni operaie. Quindi non per aver scioperato, ma perché iscritti a una sorta di sindacato. Cosa succede quindi durante il primo maggio? Si ha l'abbandono dei luoghi di lavoro, si ha la dichiarazione delle 8 ore, si viene a formare l'Unione Centrale Operaia, dove si ha un meeting di 25.000 persone. Tra queste si hanno alcuni immigrati tedeschi, quali Spies, Filden e Schwab, insieme a un nato negli Stati Uniti che è Parsons, di cui vedremo alcuni contributi dopo, che prendono parola. Questi negli anni tirano su la Liberzeitung, che è una delle voci di propaganda degli operai. Nei giorni dopo si hanno 50.000 scioperanti e avviene un momento critico di conflitto in cui la polizia carica 600 donne appartenenti al settore della sartoria. il 2 maggio sia una manifestazione davanti alla fabbrica del McCormick. Il giorno dopo anche sia un altro comizio. Durante il comizio suona la campanella, incominciano a uscire i crumiri. I lavoratori presenti di fronte al comizio smettono di ascoltare e incominciano a lanciargli le pietre. Al che la polizia interviene. I lavoratori non sono fermi, insultano la polizia. Questa spara. I lavoratori non sono fermi, questi rispondono agli spari. La polizia spara ancora più forte. Si avrà una folla in panico degli spettatori del comizio e dei lavoratori della McCormick, che porterà a non è il panico che genera i morti, ma insomma si avranno 6 morti e tantissimi feriti. Nella notte viene pubblicato un manifesto. Sono interdetti su quanto caricare la mano chi scrive il manifesto, però si chiamerà Circolare della Vendetta. Ah, e non sapevano quanto calcare la mano? Il non saper quanto calcare la mano dipendeva dal invitare a portarsi armi alla manifestazione del giorno dopo o no. Stabiliscono che ci sarà una manifestazione il giorno dopo ad High Market. La manifestazione si svolge in tutta tranquillità. Si hanno comizi, si hanno tantissime persone di fronte ai comizi. Il sindaco addirittura, il sindaco di Boston, chiederà alla polizia di rientrare alle basi. Ah. Perché non ci saranno problemi di ordine pubblico. Un clima tranquillo, insomma. Questa invece si schiera con 180 poliziotti ad armi spianate. Cercano lo sgombero della manifestazione. All'inizio della carica che ha sui lavoratori ci sarà un'esplosione. Questa è una bomba che casca sui poliziotti. Ne verranno feriti 60 e uno morirà. A seguito di questa bomba i poliziotti caricano in maniera devastante, fanno tantissimi morti, invadono domicili privati, vanno ad arrestare chi possibile, arrestano gli oratori soprattutto, sopprimono l'Arbeiterzeitung, le riunioni operaie vengono proibite e la stampa borghese attacca a sprombattuto tutti quanti. Thank you. andremo ora a sentire gli interventi, dopo essere stati condannati, dei processati del primo maggio. Questi sono tutti gli oratori di cui vi dicevo che sono stati arrestati durante la manifestazione di Haymarket e verranno condannati alla morte per impiccagione e impiccati definitivamente l'11 novembre. Lascio la parola a Rosa, che incomincerà con il primo contributo davanti al tribunale. Sì, poi volevo dire, poi queste persone qua sono state tutte condannate senza prove, cioè gli unici capi di imputazione che c'erano contro di loro erano come, sono stati riconosciuti come mandanti morali, però non c'era assolutamente niente che provasse che loro avessero commesso nessun tipo di crimine, insomma. Così come nel processo a Sacca e Vanzetti, insomma, totally fake. August Spice. Cosa abbiamo detto nei nostri discorsi e nei nostri scritti? Abbiamo spiegato al popolo le sue condizioni e relazioni sociali. Gli abbiamo fatto vedere i fenomeni sociali, le circostanze e le leggi sotto le quali si sviluppano. Attraverso la ricerca scientifica abbiamo provato fino alla sazietà che il sistema salariale è la causa di tutte le iniquità più mostruose che supplicano il cielo. Abbiamo detto inoltre che il sistema salariale, come forma specifica dello sviluppo sociale, dovrà cedere il passo, per necessità logica, a forme più elevate di civilizzazione, come il cooperativismo universale, qual è il socialismo. Abbiamo detto che tale teoria, tale disegno di miglioramento futuro, non erano materia di scelta, ma necessità storica, e che per noi la tendenza del progresso era quella dell'anarchia, ovvero una società libera senza classi né governanti, una società nella quale la libertà e l'uguaglianza economica di tutti produrrà un equilibrio stabile come base e condizione dell'ordine naturale. Grinnell ha ripetuto più volte che è anarchia ciò che si vuole soggiogare, ma la teoria anarchica appartiene alla filosofia speculativa. In nessun modo si parlò di anarchia durante la manifestazione di Haymarket. In quella manifestazione si parlò solo della riduzione delle ore di lavoro. Ma insistete, è l'anarchia che si giudica. Se è così, vostro onore, molto bene, io mi condanno perché sono anarchico. Io credo come Buckle, come Paine, Jefferson, Emerson, Spencer e molti altri grandi pensatori del secolo che lo stato delle caste e delle classi, lo stato dove alcune classi vivono a spese del lavoro delle altre classi, ciò che chiamate ordine, io credo sì che... Li pugnavo da forti contro i vili tiranni borghesi. Ma come fece Caserio e compagni, che la morte non diede a incontrare. Non vogliamo più servi e padroni, l'eguaglianza sociale vogliamo, ma quelle terre che noi lavoriamo, a noi tutti le spese ci fa. La mia testa schiacciatela pure, disse Caserio agli inquisi suoi, ma ma l'anarchia è più forte dei tuoi. Presto, presto, schiacciarvi dovrà. Abbiamo predicato l'utilizzo della dinamite. Sì. Noi abbiamo propagandato ciò che la storia insegna. Che le attuali classi governanti non presteranno più attenzione di quelle che le hanno precedute alla potente voce della ragione e ricorreranno alla forza bruta per fermare la rapida corsa del progresso. È vero o non è vero ciò che abbiamo detto? Grinnell ha ripetuto varie volte che si trova in un paese all'avanguardia. Il verdetto, certo, corrobora tale asserzione. Questo verdetto scagliato contro di noi è l'anatema delle classi ricche sulle vittime depredate, l'immenso esercito dei salariati. Ma se credete che impiccandoci potrete contenere il movimento operaio, quel movimento tenace nel quale si agitano milioni di uomini che vivono nella miseria, gli schiavi del salario, se sperate nella salvezza e ci credete, allora impiccateci. Vi trovate su di un vulcano. E lì e là e sopra e sotto e da tutte le parti fermenta la rivoluzione. È un fuoco sotterraneo che mina ogni cosa. Ma voi non potete capire tutto questo. Non credete nelle arti diaboliche come i vostri predecessori, ma credete nelle cospirazioni. Credete che tutto questo sia opera di cospiratori. Assomigliate al bambino che cerca la propria immagine dietro lo specchio. Ciò che vedete del nostro movimento, ciò che vi spaventa è il riflesso della vostra cattiva coscienza. Volete annientare gli agitatori? Allora annichilite i padroni che accumulano le loro fortune con il lavoro degli operai. Fatela finita con i latifondisti che ammassano i loro tesori con le rendite che strappano i miserabili e desolati contadini. Sopprimete le macchine che rivoluzionano l'industria e l'agricoltura, che moltiplicano la produzione, che mandano in rovina il produttore e arricchiscono le nazioni. Fin quando il creatore di tutte queste cose proseguirà il suo cammino, fin quando lo Stato avrà la meglio, la fame sarà il supplizio sociale. Sopprimete il treno, il telegrafo, il telefono, la navigazione e il vapore. Sopprimete voi stessi perché voi risvegliate lo spirito rivoluzionario. Voi e solo voi siete i cospiratori e gli agitatori. Ho esposto le mie idee, costituiscono una parte di me stesso, non posso prescindere da esse, e anche se volessi non ci riuscirei, e se pensate che potrete annientare queste idee che ogni giorno guadagnano sempre più terreno, mandandoci alla forca, se ancora una volta applicherete la pena di morte per esserci azzardati a dire la verità, e vi sfidiamo a dimostrare che abbiamo mentito in qualche occasione, io vi dico: se la morte è la pena che imponete per proclamare la verità, allora sono disposto a pagare questo prezzo così caro. Impiccateci! La verità crocifissa in Socrate, in Cristo, in Giordano Bruno, in Janas, in Galileo, vive ancora oggi. Questi e molti altri ci hanno preceduto nel passato. Noi siamo pronti a seguirli. Lotto, ma saranno le nove, i miei figlioli, ma son digiuni ancora, ma viva il coraggio, ma chi lo sa portare. Infame società, dacci mangiare. Sì. siamo sempre qua su Radio Contatto, ma interrompiamo questo ciclo. Pronto? Allo? Allo, allo, è una prova tecnica questa. Oh, si sente? Ci siamo. Mi sentite? Oh, mi sento. Sì, mi sento, mi senti? Insomma, vi sentiamo un po' così. Abbiamo un po' di problemi tecnici. Il telefono è molto arrabattato, quindi si è un po' di... Ora cerchiamo di regolare un po' i volumi e poi ti mando live. Parlate piano. Radio Spore, qua in diretta su Radio Wombat, e Radio Wombat in diretta su Radio Spore. Sentiamo solo questa tecnaccia di sottofondo. Ah, Bologna, Bologna c'è il rave perenne. Eccoci qua, pronto? Pronto? Vittore! Vi sentiamo forte, ma non chiaro. Pronto, pronto. Vi sentiamo forte, ma non chiaro. L'importante è la forza, non la chiarezza. E soprattutto l'importante è non sentirsi puntuali, ma in ritardo. Come sta andando questo primo maggio? Sta andando molto bene. Qua a Radio Mattone ci stiamo divertendo. Però vi sentiamo sempre peggio, mi sa che i nostri ascoltatori saranno un po' infelici. Siete in una segheria? Più o meno. Più o meno. Grammi di audio di audio sport. Comunque si voleva tentare un collegamento tra due regie live, che era successo il problema di audio. E si voleva usare il prossimo maggio a noi vi mandiamo un bacione grande grande, e siamo riusciti a fare anche questa cosa qua, ma è veramente un disservizio che stiamo portando alle nostre emittenti. Un esperimento mai provato, ma speriamo di riuscire a migliorare prossimamente. Proveremo con Mumble. Ce la faremo, l'importante era sapere un primo contatto. Voi è andato tutto bene? Meglio? Siete riusciti a sistemare l'AM? Pronto? Tutto bene. Avete... Pronti? Sempre Martelli a collegamento. Allora, la vostra direttona è andata bene? Siete esauste? Abbastanza, ma a cadere, raga. Bella storia, e grande. Possiamo anche primo tentativo di contatto. Oh, che gioia! Primo tentativo di contagio, sì. La qua su la terra è bellissima. Vi vogliamo tanto bene e vi chiameremo. Dai, allora, anche noi vi vogliamo un sacco bene. Vi chiameremo non in diretta. Troveremo maniere più chiare di comunicare. Ma ci sono gli Appennini nel mezzo. E per ora direi chiudiamo qui per il bene. Grandi Appennini, massimo rispetto. Chiudiamo qui questo tentativo di primo contatto con un salutone a Radio Wombat, direi, per il bene dei nostri totali spore Wombati ascoltatori e ascoltatrici. Grazie. Un saluto. Ciao, buon primo maggio. Un saluto anche a voi. Ciao. Dai, è forte, raga. siamo sempre qua su Radio Contatto, ancora una volta, Radio Mattone, si riempie di gioia, si riempie di improvvisate, si riempie di cose a caso, anche perché questa diretta così improvvisata su e con Radio Spore, perché è una simpoiesi di radio libere, e comunque non abbiamo ancora letto il pad e ci ha scritto un sacco di gente con fighissima Radio Mattone, però pure un po' di leggerezza. Invece c'è anche chi la leggerezza non la sopportava, c'è qualcuno che ha scritto che non che era meglio così, era meglio così. Io vi voglio tanto bene, no? Cioè stiamo facendo troppe cose contemporaneamente. Mulo juventino, giusto? Mamma mia. E con questa canzone volevamo fare gli auguri oltre a tutti i lavoratori e le lavoratrici. Proprio questa canzone abbiamo proprio scelto. Proprio questa canzone abbiamo scelto. Anche alla nostra lontanissima ma ancora non per molto modesta, che sappiamo che ci sta ascoltando. Auguri Modi! Prima omaggina, non per niente, non per caso. E dopo questo tentativo di collegamento, che vi assicuriamo miglioreremo, ritorniamo a Chicago e passo la parola a Rosa Canina. Sì, fatemi abbassare questa base, metto qualcos'altro, dai. Ritorniamo con Moby. Ale Ale. Michael Schwab? Uno degli imputati. Noi difendiamo l'anarchia e il comunismo. Perché? Perché se noi tacessimo, perfino le pietre prenderebbero parola. Tutti i giorni si commettono assassini, i bambini vengono sacrificati in modo disumano, le donne muoiono a forza di lavorare e gli uomini feriscono lentamente, consumati dai loro rudi mestieri. E io non ho visto mai che le leggi castigassero tali crimini. Come operaio quale sono? Ho vissuto tra i miei simili, ho dormito con loro nei sottotetti e nei tuguri, ho visto prostituirsi la virtù a forza di privazioni e miseria. Ho visto morire di fame uomini robusti per la mancanza di lavoro, ma tutto ciò l'avevo già visto in Europa e così nutrivo l'illusione che in questa terra, nota come la terra della libertà, non avrei assistito a tali tristi scene. Eppure ho avuto occasione di convincermi del contrario. Nei grandi centri industriali degli Stati Uniti c'è più miseria che nelle nazioni del vecchio mondo. Migliaia di operai vivono a Chicago in stanzette sudice, senza ventilazione né spazio sufficiente. Due o tre famiglie vivono ammassate in una sola stanza e mangiano avanzi di carne e qualche vegetale. Le malattie si accaniscono sugli uomini, sulle donne e sui bambini, soprattutto sugli infelici ed innocenti bambini. E non è questo orribile in una città che si reputa civilizzata? Da ciò, dunque, il fatto che ci siano qui più socialisti americani che stranieri, nonostante la stampa capitalista sostenga il contrario, al fine di poter accusare questi ultimi di portare il caos e il disordine. Il socialismo, tale come noi lo intendiamo, significa che la terra e le macchine devono essere di proprietà comune del popolo, che la produzione deve essere regolata ed organizzata da associazioni di produttori che suppliscono alle domande di consumo. Sotto tale sistema tutti gli esseri umani dovranno disporre di mezzi sufficienti per svolgere un lavoro utile e non c'è dubbio che nessuno smetterà di lavorare. Stando alle statistiche, 4 ore di lavoro al giorno saranno sufficienti per produrre tutto ciò che vi è di necessario per una vita confortevole. Così avanzerebbe del tempo per dedicarsi alla scienza e all'arte. Questo è ciò che si propone il socialismo. C'è chi sostiene che questo non sia americano. Allora sarà americano lasciare il popolo nell'ignoranza, sarà americano sfruttare e derubare il povero, sarà americano fomentare la miseria del crimine. Che cosa hanno fatto i grandi partiti politici per il popolo? Promettono tanto e non fanno nulla, salvo corromperlo comprandone i voti nei giorni delle elezioni. Ed è naturale, in fin dei conti, che in un paese dove la donna è costretta a vendere il suo onore per vivere, l'uomo debba vendere il suo voto. Che cos'è l'anarchia? Uno stato sociale nel quale tutti gli esseri umani operano il bene per la semplice ragione che è il bene e rifiutano il male perché è il male. In una società tale non sono necessarie né le leggi né autorità. L'anarchia è morta, ha detto il procuratore generale, ma fino ad oggi l'anarchia esiste solo in quanto dottrina e Mr. Grinnell non ha alcun potere per uccidere una qualsiasi dottrina. L'anarchia è oggi un'aspirazione, ma un'aspirazione che si realizzerà più o meno in fretta. Non so quando, ma senza dubbio so che si realizzerà. È un errore utilizzare la parola anarchia come sinonimo di violenza, poiché si tratta di cose opposte. Nel presente stato sociale la violenza si utilizza in ogni momento e per questo noi anche propagandiamo la violenza come necessario strumento di difesa. L'anarchia è ordine senza governo. Noi anarchici diciamo che l'anarchia sarà lo sviluppo e la maturità della cooperazione universale. Diciamo che quando la povertà sarà stata eliminata e l'educazione sarà generale e di diritto comune, la ragione regnerà sovrana. Diciamo che il crimine apparterrà al passato e che le malvagità di coloro che si travieranno potranno essere evitate in modo diverso da quello dei nostri giorni. La maggior parte dei crimini sono dovuti al sistema imperante che produce ignoranza e miseria. Noi anarchici crediamo che si avvicineranno i tempi in cui gli sfruttati reclameranno i loro diritti agli sfruttatori e crediamo inoltre che la maggioranza del popolo, con l'aiuto dei reietti delle città e della gente semplice delle campagne, si ribellerà contro la borghesia di oggi. La lotta, secondo la nostra opinione, è inevitabile. All'amore tuo, fanciulla, altro amore io preferia. È un ideale l'amante mia, a cui detti braccio e cor. Il mio cuore a porre sfida i potenti della terra, e il mio braccio muove guerra al codardo, all'oppressore. Perché amiamo l'uguaglianza, ci chiamano malfattori, ma noi siamo lavoratori e padroni non vogliamo. Dei ribelli sventoliamo le bandiere insanguinate e innalziamo le barricate per la vera libertà. Se tu vuoi, fanciulla cara, noi lassù combatteremo e nel dì che vinceremo braccio e cor ti donerò. E giù la schiavitù, vogliamo la libertà, siamo lavoratori, e giù la schiavitù, vogliamo la libertà, siamo lavoratori, vogliamo la libertà. E ritorniamo sempre su Radio Contatto, Radio Mattone, Radio Primo Maggio, siamo ancora qua. Il nostro Stamp ci ha da introdurci il prossimo argomento, insomma, stiamo per chiudere queste letture dei martiri di Chicago. Dopo il caro Riccardo Mella che ci ha riportato le voci dei giustiziati, vorrei fare un paio di consigli per il film serale. Ah, dici tutto. O mattutino, se non avete niente da fare di mattina, quando vi pare, insomma. Uno è Sacco e Vanzetti, altri due lavoratori e anarchici giustiziati sempre negli Stati Uniti, film di Rosi come regia. Gianfranco Rosi. L'altro film che vi consiglio invece, di cui vi verrà dato un estratto fra poco, è di Monicelli, I compagni, i quali si trovano con la morte di un proprio collega di lavoro al seguito del superamento della 13ª ora di lavoro, e quindi si organizza. Molte grazie. Davvero, che bella puntata oggi, un sacco di contributi interessanti, un sacco di persone che partecipano nel pad, e ci abbiamo pure Radio Spore alla quale mandiamo ancora un bacione e festeggiamo ancora il primo maggio anarchico. Mando subito questo spezzone dei compagni, va bene, abbassiamo. Sono il professor Senigallia, amico e ospite del maestro Di Meo. Potrei dire un mio punto di vista? Cosa? Ma veramente? Sentiamo, oh, venga. Grazie. E perdonatemi se metto bocca. Dunque, ecco, volevo dire, effettivamente, bisognerebbe sempre pensarci due volte prima di promuovere un'agitazione. È in questo che quel giovine ha ragione. Ma cosa cadete? Aspetta. Fermo, virangutan. Parli pure. Grazie. Tuttavia, mi scusi, è indubbio che siate riusciti a conquistare la cosa più importante. Una quasi totale unità di intenti. Ed io lo so quanto sia difficile vedere tanti operai riuniti fuori del loro posto di lavoro. Ma appunto per questo mi dicevo, non sarebbe per caso un peccato veder sprecata un'occasione così importante per un'ora soltanto di astensione? Pensateci bene. Non un'ora, io direi, ma un giorno intero, una settimana, fin tanto che i vostri padroni si renderanno conto di avere a che fare con degli uomini e non con delle bestie da soma. Ma allora sarebbe uno sciopero. Sì, non lo so, forse. Sì, uno sciopero, poche vale. Amici, facciamo lo sciopero e bastardo chi si tira indietro. No, un momento, prego. Bisogna dare libertà di scelta. Se qualcuno, come quel giovine là, ha paura, non se la sente, può tirarsi indietro. Guardi che qui nessuno ha paura, ha capito? La sola paura che ho io è che voi altri ve la fate nelle brache, perché siete gente che dice di sì al primo venuto. Ma chi è lei, quel tipo là? Ma chi lo conosce? Io mi occupo di questi problemi da alcuni anni. E poi, ho dato solo un consiglio. Chi ci sta per lo sciopero pieno, alzi la mano. Bene, approvato all'umanità. Meno Bertone Raul che non ci sta. Ci sto. Voce! Ha detto che ci sta. Così va bene. Vendendomi da un prete, quattro tiri del Sardegno. Beatrice, ha colto misericordia i tuoi abiti, ed ha peccato e siamo sempre liberi, ed ab omni perturbazione sicuri, expectante spiatam spem, ed adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Una istituzione formati almeno schifo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mangiatene tutte. Tu pensavi che ci stessimo riscaldando, che non facessimo sul serio, vero? Sì. È incredibile. Non può essere vero. Quel moccioso pensava che non facessero sul serio. Sì, povero illuso. Sei così ottimista che tutti ti infamano? O credi che al peggio non ci sia mai fine? Ti lasci dolcemente cullare nel presente? O il futuro è già impresso chiaramente nella tua coscienza? Sei in contatto con ogni universo parallelo? O il tuo cervello è l'unico mondo possibile? Se proprio questa realtà ti doveva toccare, corri subito a prendere carta e penna! Impasta le tue meningi, lucida la sfera di cristallo, ascolta la sinfonia dell'infinito. Aggrega qualunque altrimenti in un unico adesso e spiegaci che po***o potrebbe succedere ancora! Dai ascolto alle tue più deliranti premonizioni, alle tue più razionali previsioni, o dici semplicemente quale scenario ti aspetta per il futuro. A questo punto, scrivi il tutto in una lingua comprensibile e invialo a distopie@esiliati.org. Ogni venerdì, dalle 19 alle 21, leggeremo i testi e assegneremo ricchissimi premi! I premi verranno assegnati in maniera completamente casuale e contro qualunque competizione. Se non l'avete ancora capito, vogliamo leggere in radio cose deliranti scritte da voi. Adesso vai, figliolo. Devi riportare la pace sul nostro pianeta. Diario dell'Eterna Quarantena. Settembre 2022. Settembre. È passato un altro mese. Da quando una settimana fa il nuovo governo di massima allerta e sicurezza nazionale ha emanato il suo 100° decreto, stavolta stabilendo che è vietato parlare, salutarsi e perfino lanciarsi sguardi troppo lunghi al di fuori delle mura domestiche. La situazione, più che degenerata, è arrivata al suo picco di amara assurdità. È da 2 anni che viviamo così, con la vita determinata dal ritmo cadenzato e magistralmente stabilito dell'alternanza tra l'ultimo decreto e il prossimo che uscirà. I governi erano già ben preparati stavolta, dopo più di un anno di prove tecniche di controllo di massa senza precedenti, grazie alla passata e ormai celebre pandemia del 2020. Quando è iniziato a girare la notizia di una nuova, incredibile, quanto mai inedita epidemia partita dal sud del mondo, non avevano ancora ridimensionato del tutto le misure prese per il Covid-19 e senza batter ciglio, con agilità felina, hanno ripreso a regalarci decreti bisettimanali e impedirci di vivere, godendo del non dover abbandonare così presto questa pratica così simpatica. Ma, infamate al governo a parte, meriterà ora, che abbiamo più informazioni scientifiche, parlare di questa nuova malattia che sta colpendo l'umanità, perché ha dei tratti davvero unici. Il primo caso, il caso A, registrato in Cile, è stato raccontato dalla stampa e dai media mainstream più o meno come segue. Elencherò alcuni dei titoli delle principali testate. Ragazzo cileno si alza durante una normalissima conferenza di smart working, iniziando inspiegabilmente ad insultare i colleghi, il capo e il vicino di casa, e finisce per distruggere il computer assediate. È mistero, ora in osservazione all'ospedale di Santiago. Oppure, in Cile, ragazzo di 30 anni colto da malattia sconosciuta, insulta i colleghi, il datore di lavoro e urla di odiare Zoom durante seduta di smart working. Un'altra testata riportava: Santiago, indagini aperte su nuova malattia che fa sbroccare le persone. Ragazzo sulla Trentina distrugge con una sedia il computer durante videoconferenza di lavoro. Dopo questo primo caso, definito alquanto sorprendente dai notiziari, a Santiago in una settimana se ne sono registrati altri 403. La successiva erano 1120. Tutte situazioni in cui l'avvenuto contagio si era reso evidente a seguito di episodi simili. Persone totalmente sane e a prima vista serene e tranquille che all'improvviso iniziavano a sbraitare e non riuscivano più a dire altro se non le cose che le facevano incazzare davvero, urlando al mondo le loro insoddisfazioni o prendendosela con quelli che identificavano come la causa dei loro mali. In tutti i casi accertati non avevano tutti i torti. Già dalle prime settimane non mancarono anche dei feriti lievi, nella maggior parte dei casi effettivamente delle gran brutte persone, che venivano travolte da quella che sembrava una rabbia antica che sgorgava da dentro ai soggetti colpiti dal virus. Ad oggi la situazione si è estesa a tutto il Cile e l'America Latina, ma i primi casi si sono ora registrati anche in Asia, in Africa, in Australia e in Medio Oriente. I giornali si mantengono ancora abbastanza sul vago sui reali effetti di questa malattia, ma c'è un vasto gruppo di scienziati e scienziate all'interno della comunità scientifica che sta divulgando dettagliate ricerche indipendenti sulle caratteristiche del virus, che hanno lasciato chi le ha lette, noi per esempio, completamente esterrefatte. A quanto pare siamo di fronte a un'epidemia mai vista prima. Viste le mie inesistenti competenze mediche, proverò a spiegarla per immagini. Questo piccolo, infinitesimo virus penetra negli angoli più remoti della coscienza, si impossessa della stanza dei freni inibitori del corpo, delle persone e da lì, muovendo le fila dei rancori accumulati da anni, delle sofferenze, della rabbia, dei dolori, delle insoddisfazioni e di tutte quelle cose che coviamo dentro senza mai esprimerle, fa andare in tilt il sistema, ti fotte il cervello e in meno di una settimana si manifesterà con una sbroccata epocale e non ti farà mai più vedere il mondo come prima. Gli scienziati spiegano che questo virus, attaccando il sistema nervoso in maniera incredibilmente selettiva, compromette la capacità di adattarsi alle situazioni di merda, la pazienza, la sopportazione, l'istinto all'omologazione e l'accettazione di ciò che non si desidera. E insomma, diventi un po' stronza o stronzo e non puoi farci nulla. Una cosa del genere non si era mai sentita. Per fare alcuni esempi, a quanto pare, una volta contratta la malattia, i soggetti colpiti perdono completamente la capacità di accettare di vivere una vita inutile per più di 10 minuti, o di svolgere un lavoro che non hanno scelto per più di 5 minuti, o di guardare talk show televisivi per più di 5 secondi senza distruggere la TV, o di ascoltare le pubblicità su Spotify, o il concetto stesso di Spotify in alcuni casi. Quando il virus attecchisce, i contagiati iniziano a dire tutte le cose che non sopportano, che li fanno arrabbiare, senza riuscire a smettere, sfociando a volte in una certa aggressività. In Bangladesh, una donna, colpita gravemente dalla malattia, si è alzata mentre cuciva nella grande fabbrica di tessuti in cui lavorava. Ha iniziato a scuotere tutte le sue colleghe, gridando che lei odiava cucire, che anche se era cresciuta in montagna le piacevano le barche a vela e che avrebbe voluto imparare a portarne una e passare la vita in mare. Dopodiché aveva iniziato a buttar giù a calci tutte le macchine da cucire, insultando i suoi capi, che l'avevano presa a lavorare a 13 anni, e uscì da lì correndo nuda, che coi vestiti lunghi con quel caldo soffocante non li poteva sopportare più. Dopo l'accaduto, la donna era stata ricoverata d'urgenza e dalle analisi risultò positiva al virus. È ancora quasi impossibile credere che possa esserci generato un virus che si manifesta con questi sintomi, ma le analisi scientifiche parlano chiaro ed è per questo che i governi di tutto il mondo stanno dando una versione dei fatti, diciamo, un po' personalizzata. I signori del mondo, infatti, fattisi due conti, hanno saggiamente deciso che una malattia del genere, che non presentava grosse implicazioni per la salute, se non un po' di tachicardia nel momento dello sclero e una robusta e costante incazzatura, accompagnata da un'insistente insofferenza per i più minimi soprusi, doveva essere fermata ad ogni costo e soprattutto doveva essere resa davvero temibile, metti mai che fosse apparsa innocua o peggio, desiderabile agli occhi delle persone. Così, consultatesi segretamente come da manuale, si accordarono sulla versione dei fatti da far girare in tutto il mondo, insomma, prepararono il copione ufficiale della realtà da dare in pasto ai giornali. Il nuovo virus, denominato SMATO01, abbreviato SMT01, è una delle epidemie più pericolose e spaventose che l'umanità abbia mai affrontato. Non solo rende antipatici, irritabili e assolutamente poco piacevoli, ma, attenzione, uccide. I notiziari di tutto il mondo hanno infatti riportato che l'SMT0 è fatalmente letale. Dopo un tempo stimato di circa un mese, di sclerate e comportamenti assolutamente non conformi, quando meno te lo aspetti, schiatti tra doci sofferenze. E schiatti pure male, dicono, perché nel frattempo ti sei inimicato tutti i tuoi cari e conoscenti, che devono sorbirsi le tue piazzate. Questa notizia è stata ovviamente presa per buona. In tutto il mondo ora, chiunque sembri essere particolarmente irascibile, poco incline alla pazienza o semplicemente scazzato, se la rischia di brutto. Per questo, tre settimane fa, anche qua in Italia, seguendo l'esempio dei paesi colpiti dall'epidemia, è stato emanato un decreto che proibisce di arrabbiarsi troppo, di alzare la voce se non assolutamente indispensabile, di muovere eccessive critiche o sporgere lamentele, perché potrebbero essere viste come sintomi della malattia e gli ospedali sono già al completo per gli accertamenti, visto che i casi di incazzatura e di perdita di pazienza nel nostro paese sono in genere piuttosto elevati. Ora, ovviamente, non è facile trovare informazioni che non siano schierate con la linea istituzionale, alterate o modificate senza criterio. Ma qualche settimana fa, tramite una rete di divulgazione scientifica clandestina, organizzata da alcuni gruppi ribelli, partita dal Sud America e assolutamente impenetrabile per chi non ha le credenziali di accesso, siamo riusciti a ricevere uno studio condotto a Santiago da una comunità medica autonoma che fa chiarezza sul virus, dopo aver studiato centinaia di casi. Da quanto riporta lo studio, la malattia in realtà non è affatto letale. È completamente innocuo a livello di effetti sul corpo e sulla salute, ma ha un decorso molto lungo, può durare dai 3 ai 4 mesi, con livelli di incazzatura e insofferenza mutevoli, insomma, con fasi più acute e fasi più moderate. Ciò che hanno scoperto è che la rabbia non si indirizza verso chiunque, ma è piuttosto selettiva. Si sviluppa una strana inclinazione al rifiuto dell'autorità, perché la parte del cervello che domina gli impulsi e rende più pacati e incline all'obbedienza è temporaneamente fuori uso. Dunque, spiega lo studio, i pazienti si dimostravano estremamente collaborativi con i medici durante la ricerca, ma continuavano invece a inveire e usare una scala incredibilmente variegata di insulti verso tutto ciò che identificavano come loro superiore o come imposto. Tra i bersagli più citati dallo studio, i datori di lavoro, le tasse, l'economia, le banche, il traffico, il padrone di casa, l'affitto, la macchina, la rata della macchina, i mariti, il governo, i centri commerciali, tutte le parole tipo smart qualcosa o hashtag qualcosa, la parola influencer e centinaia ancora. Ma la ricerca non si ferma qui, fa un passo in più. Si spinge a sostenere che se non proprio da incoraggiare, questo virus forse non è poi da ostacolare. Appurato tramite fonti autonome il suo inesistente tasso di mortalità, il virus sembra in effetti avere solo conseguenze rinvigorenti per l'organismo e la salute, soprattutto quella mentale. 3 mesi di malattia possono avere su una psiche piuttosto docile e incline all'obbedienza l'effetto di circa 30 docce fredde nello stesso istante per uno che è in post-bronza. Insomma, questo virus, col solo prezzo di renderci intrattabili e completamente folli per qualche mese, scosta il velo di Maya, fa emergere ciò che reprimiamo, sembra dar voce a una giusta e stagionata rabbia, sopita dentro ognuno. Concludono i ricercatori, una sana incazzatura fa bene alla salute, uno sclero al giorno, giustamente orientato, leva il medico di torno. Insomma, quando ce vo, ce vo. È alla luce di queste considerazioni che abbiamo iniziato a riunirci, di nascosto, tutti i giorni, mostrandoci all'esterno miti, solari, mansueti ed umore ineccepibile, ma covando dentro un virus di cui forse eravamo portatori sani da tempo, ma che ora sta iniziando a manifestarsi. Ancora nessuno di noi ha dato i segni più evidenti delle fasi acute, ma sentiamo che sta incubando. Alcune comunità in Cile hanno isolato il virus e si stanno preparando ad esportarlo silenziosamente in tutto il nord del mondo, nelle forme più svariate. Un appello clandestino a fare lo stesso è stato allargato a tutti i paesi del sud del mondo dove il virus è già divampato con forza. Quello che ci assicurano è che arriverà anche qui. Sarà una pandemia. Per la prima volta nella storia dell'umanità, la rabbia sarà letteralmente e biologicamente contagiosa e anche parecchio, a detta dei medici. E i governi di tutto il mondo stavolta non sanno davvero che vaccini prendere. Andrà tutto bene. Spettacolo. Triplo premio. Si manda un pezzo.

Grazie, sono senza parole. È tutto bellissimo, grazie. Volano, volano le emozioni. Niente smart working oggi. Volano, volano. Nessuna autorità con cui prendersela, si lavora e basta. Sì, qua su Wombat i nostri cuori sono aperti. Che bello, che bello. Io direi di chiudere così. No, intanto iniziamo, cioè io inizierei col saluto. Vorrei salutare di nuovo e nuovamente Radio Spore. Vorrei salutare tutti i nostri compagni che non possiamo vedere né abbracciare, ma cui comunque cerchiamo di tenere compagnia con le nostre voci, con le nostre presenze, con la nostra solidarietà. Vorremmo poi salutare e anche, come dire, portare all'attenzione tutti quei compagni e compagne che hanno deciso lo stesso di scendere in piazza oggi. E dai, porco. La fase porco 2. Attenzione, attenzione, abbiamo un primo caso di smato 1.0, qui in diretta da Radio Contagio. Che gioia. Purtroppo, appunto, è ancora il 1° maggio, per cui le informazioni ci arriveranno nei prossimi giorni dai nostri compagni. Per ora non possiamo che fare affidamento alle testate di informazione, alla pulciosissima stampa mainstream. Ci consigliano dalla regia. Sì. E siamo sul Facebook della Questura di Trieste. Ma come? Legge Rosa. Ma possiamo anche non leggerlo, se fa schifo. Ancora cerchiamo di capire qual è il succo delle notizie. Comunque, tensione a Trieste per il corteo antifascista del 1° maggio contro Covindustria. Covindustria. Alcuni momenti di tensione quando i manifestanti hanno esposto uno striscione nonostante la diffida delle forze dell'ordine a non violare le norme antiassembramento. Giustamente uno striscione molto teso crea tensione. Pericolosissimo. Se no si leggeva poco. I protagonisti dei fatti sono stati denunciati per resistenza pubblico ufficiale. A loro carico saranno anche notificate multe per la violazione delle misure anticontagio. Un appunto: per resistere alle forze dell'ordine, le forze dell'ordine suddette si devono essere avvicinate, si sono assemblate assieme ai manifestanti. E denunciamo queste forze dell'ordine. Parrebbe anche che siano i primi a evitare l'uso delle mascherine quando ti vengono a sbroccare addosso. Evitano anche il numero di riconoscimento sopra il casco. Ma non preoccupiamoci per le mascherine, ragazzuoli. Tra poco, come ci dicono, potremo tranquillamente tornare a sputarci in faccia come prima. Oh. Stavo per mettere più sbirri morti, però prima non la trovo. Finché il nostro dal reverendo... 4 maggio potrai sputare in faccia solo ed esclusivamente a un tuo congiunto. Finché il nostro reverendo finisce di cercare il prossimo brano, mandiamo solidarietà a tutti i denunciati di Trieste, a tutti i compagni e le compagne di cui ancora non abbiamo ricevuto notizie, ma che siamo certi, come per il 25 aprile, in tante, anche senza darne diffusione, sono usciti hanno camminato sui sentieri dei partigiani, sono scesi nelle piazze delle loro città, si sono mimetizzati alle code a un metro per un metro di distanza fuori dalle librerie e dai supermercati per leggere e diffondere cultura e pensieri e considerazioni su questa situazione. A tutte e tutti loro va il nostro pensiero, va la nostra solidarietà, va la nostra complicità. Grazie, grazie Mari, davvero. E anche e la nostra solidarietà e complicità va ovviamente anche a, a tutte le donne che hanno partecipato oggi al, al primo maggio, allo sciopero femminista del primo maggio transfrontaliero, indetto da non una di meno. Niente, io non la trovo e direi di dare, di passare la palla ad Albus che c'ha, che c'ha un pezzino così, un po' l'ultimo, un live di chiusura. Ci siete? No, l'ho appena trovata, vabbè. Dai, dai, dai. Sera ti prego, di nostro figlio che vada a dormire, perché le cose che ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, è arrivata la liquidazione. Licenziato senza pietà, e la ragione perché ho scioperato per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, per il lavoro, per la libertà. Quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone vedrai cederà. Invece vince perché i crumiri gli dà la forza che lui non ha. Questo sei visto davanti ai cancelli, noi si chiamava i compagni alla lotta. Ecco il padrone fa un gesto, una mossa, un dopo l'altro cominciano a entrare. Quei poveretti facevano pena, dietro a loro là sul portone rideva Pietro, il porco padrone, lo maledetto senza pietà. Moglie, io prima ho sbagliato, che nostro figlio che venga a sentire, che da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Fantastico. Abbiamo malamente sopperito all'assenza di Diesis, ma tornerà tra noi. E con questa vi lasciamo. Auguri Modesta. Vi facciamo tanti auguri, sia alla Modesta che a tutti i lavoratori e non. Soprattutto non. Buon primo maggio dalle frequenze di Radio Wombat, dalla regia di Radio Contagio, Radio Contatto, Radio Contado. E che lo smatto vi prenda.